X24 di Giovanni Minoli. E lei, Michu, che cosa ne pensa? Beh, penso che è molto più facile essere contro il razzismo quando si abita a New York e quando si abita a Saint-Denis, eh? Io, per esempio, sono di Saint-Denis e, beh, sono razzista. E voi, invece, vivete in questa casa e non siete razzisti per niente. Francamente, Michu, lei si considera un razzista? Ah, sì, francamente sì. Io con gli stranieri ci vivo insieme, non li posso soffrire. Non fanno niente, sono sporchi, ci fregano le macchine. Gli danno pure le case prima che a noi, guadagnano più di noi con tutti i sussidi che hanno. A scuola i nostri figli non imparano niente perché il 70% è di stranieri che non parlano una parola di francese. Ci rompono con i loro chador e dovremmo pure pagare per costruirgli le moschee. Beh, è tutta un limite. Ma insomma, che ne è del diritto alla diversità, della tolleranza, dell'ideale della Francia terra d'asilo? Boh, io che ne so che ne è. Allora lei vota Le Pen? Ah no, non posso votare, non ho fissa dimora. Forza, quello che lei non capisce è che non sistemerà i suoi problemi personali l'essere razzista. Ah beh sì, ma quello che capisco è che tre quarti del pianeta stanno nella merda. Allora cercano di piazzarsi dove c'è meno merda, cioè qui da noi. E poi una volta qui bisogna che qualcuno si stringe per fargli posto e farli sopravvivere, oh. Vabbè, appunto. Ah sì, ma finora chi si è stretto per fargli posto sono quelli di Saint-Denis, mica quelli di Nui. E poi quelli di Saint-Denis si devono stringere continuando a sorridere, perché sennò è immorale, vero? Mi dica un po', Michu, non sarà un po' comunista? Ah no, non sono comunista, se no è da un pezzo che avuto la casa, eppure mio fratello. Beh, e allora si sbrighi a prendere la tessera del partito prima che scompaia definitivamente. Professor Giuseppe De Rita, buongiorno. Ha sentito questo dialogo che è tratto da un film del 1992 intitolato La crisi. È un ritratto della Francia praticamente di oggi, fatta 25 anni fa. I problemi erano già lì, tutti sul tavolo. Poi, che effetto le ha fatto sentire questo brano di film? Un effetto di anticipazione. Potrebbe essere stato girato in qualche periferia romana o milanese o veneta anche di oggi. Ma chi è? Con le domande tipiche del politico d'oggi che vuole quelle risposte. E chi è lo straniero poi in definitiva? È qualcuno che ti arriva nel tuo confine, no? Perché è un vero problema che non abbiamo mai capito, che tutta la nostra identità, anche quella nazionale, è fatta da confini. Esatto. Chi oltrepassa il confine è uno straniero. Pensate a tutta l'epopea risorgimentale italiana, è stata fatta creando un confine sempre più ampio. E qual è la reazione che si prova quando arriva lo straniero, l'alieno? È quella? È una reazione di difesa e potenzialmente di rigetto. Poi i meccanismi di assestamento arrivano immediatamente dopo, però la prima reazione emotiva è: ma chi è questo e cosa vuole e come posso evitarlo? Professor De Rita, ma le grandi urbanizzazioni però hanno prodotto concentrazione di immigrati in luoghi prima abitati da cittadini che sono portatori di un'altra cultura. Il risultato è quello che vediamo in Francia e non solo. Qual è stato l'errore? Un errore urbanistico? Culturale? Quale? Ma dunque, se noi ci pensiamo, noi negli anni 50 e 60 abbiamo avuto una grande urbanizzazione al nord, tra Milano, Torino, Genova e poi via via fino a Bologna, con centinaia di migliaia di persone che arrivavano. Forse ci siamo scordati che negli anni del boom, fra il 58 e il 63, si spostavano dal sud al nord 700.000 persone l'anno, altro che le 150.000 che vengono dall'estero oggi. Noi quella urbanizzazione l'abbiamo in qualche modo assimilata con una concentrazione di immigrati che abbiamo elaborato bene. E fra l'altro, se io penso al Brambilla milanese classico, che si vede arrivare il siciliano di cui non capisce neppure il dialetto e che gli occupa anche fisicamente lo spazio al bar, beh, abbiamo fatto un'operazione di civiltà non da poco. Non da poco. In Francia è stato diverso. In Francia, infatti, abbiamo messo tutti questi immigrati, li abbiamo messi nelle periferie e li abbiamo confinati. Infatti l'Europa ha trasformato nella creazione di territori apposta, come delle riserve, dove vigono altre leggi. E lì si crea la tensione, perché proprio perché crei il confine, loro si sentono segregati, vorrebbero uscire, tu non li vuoi far uscire perché sennò vengono da te. Noi italiani abbiamo fatto un'operazione diversa, migliore, più o meno coscientemente. Abbiamo distribuito il flusso di immigrati sul territorio, anche nei piccoli paesi, i abitanti si trova il marocchino, il rumeno, la badante moldava, si ritrovano un po' tutti. Invece in quei contesti lì il sogno in qualche modo sembra finito. Sì. Sembra che non resista neppure il sogno americano, perché dopo 8 anni di presidenza di Obama, cioè di un nero, la divisione tra bianchi e neri e messicani è una divisione più forte di prima, se possibile. Cos'è successo? Beh, è diminuito il sogno. E il problema vero è che il sogno è una bisogno di certezza, diciamo così, esistenziale, nella grande America, nel momento in cui il sogno esistenziale diventa secondario rispetto al bisogno quotidiano di sicurezza, esatto, appunto, vince la sicurezza, non vince il sogno esistenziale. Questo accade in America, ma può succedere anche in Cina, se succede. E secondo lei in Italia, dopo questo tipo di amalgama che lei ha descritto, comincia a emergere qualcosa del genere oppure non ancora? Personalmente ritengo che, anche se poi posso sbagliare, ma certo, ritengo che non c'è ancora un pericolo di quel genere. Ecco. In parte perché noi italiani non abbiamo avuto sogni finora. ed è difficile rinunciare a un sogno se non abbiamo. In parte perché riconosco, io che sono sempre stato critico nei confronti delle amministrazioni pubbliche, che il modo in cui è stato gestito è stato da una buona, se non alta, amministrazione. Professor De Rita, la Brexit è stata fatta sulla spinta del desiderio di riprendere il controllo e di limitare l'ingresso degli stranieri. Questo è chiaro: in Francia la Le Pen guida il primo partito nei sondaggi, in Olanda si profila una vittoria appunto del movimento antislamico, in Germania è cresciuto il partito nazionalista, l'FD. Ecco, il problema esiste, il popolo cerca risposte alle sue domande. È davvero uno scontro tra il popolo e l'elite? No, prima di tutto perché l'elite non c'è. Se guardiamo anche le nazioni che lei ha indicato, non ci sono più elite, non c'è uno scontro fra elite e popolo. Si immaginerei cos'è l'elite oggi italiana o anche cos'è l'elite francese, basterebbe vedere le vicende presidenziali. Non si sente il senso dell'elite, si sente certamente il problema di un'autonomia gestionale, però in qualche modo anche, mi permetta il discorso di prima, sognata, dire certo, esco dalle Unione Europea e recupero la mia sovranità, è un sogno. È un sogno, ecco, questo è un sogno di prendere, serie B, certo, magari, di serie B, ma è un sogno rispetto all'West americano, che certo, è un grande sogno. Questo certo, è un sogno di serie B, ma la gente si concede il sogno E ne ha bisogno, del fatto poi che quel sogno viene collegato a più sicurezza rispetto ai stranieri. Certo. Senta, gli americani, professor De Rita, comunque occuparono il nuovo mondo e lo costruirono cacciando gli indiani nelle riserve, con la forza, con il genocidio. Questa è la realtà cruda. Cosa succederà nel mondo contemporaneo? Qualcosa di analogo? Non credo perché il meccanismo che a noi abbiamo visto, abbiamo conosciuto e abbiamo vissuto in Italia è che l'occupazione altrui viene in qualche modo rigettata, ma non c'è una azione collettiva per buttare fuori gli indiani dalle riserve. Perché chi è andato nelle riserve, chi ha occupato le riserve, i meridionali italiani nelle città settentrionali, oggi alcuni stranieri nelle città o nei borghi italiani, diventa più italiano di prima. Certo. Se lei va in un paese piccolo, 2000 abitanti, trova i 4 e 5 operai o muratori rumeni, beh, quelli si sentono italiani, membri della certo, comunità. Certo. Ecco, però, professor De Rita, le nostre città, i nostri condomini, le nostre case, un po' lo dicevamo prima, i nostri quartieri sono progettati per uno stile di vita occidentale, ma ci sono però esempi chiarissimi ogni giorno di come tutto questo sia lontano dagli usi e costumi dei popoli che arrivano. È un problema anche di architettura, lo dicevamo all'inizio. Però c'è una specie di doppio binario, cioè, da una parte i paesi che noi riconsideriamo ancora in via di sviluppo, che mandano i propri abitanti in giro per il mondo ad emigrare, nel modo in cui fanno oggi le città assomiglia a quelle del nostro occidente, non è che uno va a Pechino o a Shanghai o in India, cioè ha vinto questo modello di urbanizzazione. Mentre invece noi, per esempio, noi italiani, bene o male, è vero che ogni tanto ci concediamo il grattacielo alto nella nebbia, però al tempo stesso abbiamo tante piccole casette nei nostri borghi, nei nostri piccoli paesi. Io ricordo quando cominciarono ad arrivare i cinesi a Prato 25 anni fa, i cinesi a Prato si sono ambientati rapidamente perché hanno trovato un humus uguale a loro. Lei va, faccia un giro per la via Pistoiese, da Prato verso Pistoia, e trova un'urbanistica che era adatta all'immigrazione. Ma professor De Rita, chi è il razzista e chi è il populista? Che differenza c'è? Sta nella radice la differenza. Il razzista è un emotivo. Il populista è un politico che strumentalizza qualcosa che viene agitato politicamente. È un disagio che viene agitato, e quindi il termine populista è molto usato dai politici, per esempio, perché è uno strumento di espressione di una propria linea politica. Però che uno si senta populista, se uno gira e dice ma tu sei populista, ti diranno di no. Professor Delita, ancora una cosa, ma abbiamo detto della responsabilità della politica nell'uso delle parole e delle situazioni, ma i limiti degli intellettuali, delle classi colte, di fronte a questo scontro, che è comunque uno scontro forte, lei vede un'adeguatezza del ceto intellettuale nell'affrontare e nell'aiutare la soluzione del problema dello scontro? Credo che non faccia parte del, non dico delle responsabilità, ma delle prospettive di un ceto intellettuale che già è molto basso, e che non si può porre un problema di integrazione con l'altro attraverso l'intelletto. L'integrazione si fa, lo dico con una battuta, ma per farmi capire, l'integrazione si fa più con bello fico che con un rapporto di derisa, scusi il termine. Vabbè. Ma come nasce allora la diffidenza verso lo straniero? Ve lo stiamo chiedendo anche su Twitter e su Facebook. C'è chi ha già risposto, scrive che si tratta di paura di quello che non si conosce, o che tutto nasce dalla scellerata gestione dell'immigrazione fatta dal governo italiano, oppure ancora altra risposta, sono troppi in un momento in cui non ce lo possiamo permettere. Ecco, continuate a rispondere sulle nostre pagine di Twitter, ne daremo conto, Twitter e Facebook, 800 24 00 24 per le telefonate, 349 238 6666 per gli sms. Ecco Mario, insomma, l'integrazione si fa più con bello figo che con un rapporto di vita? Ma con bello figo non lo so, la musica non mi pare un granché, francamente. È quello che è. Sicuramente c'è un fenomeno che invece non aiuta e va smantellato, a mio avviso, che è l'inflazione totale del politicamente corretto, del conformismo culturale, un fenomeno che è partito dai radical chic e praticamente ha pervaso oggi tutto il linguaggio, tutta la società, non puoi più chiamare le cose con il loro nome, tant'è che, come appunto diceva Derrida, sono spariti i confini, perché i confini sono una cosa che tu non puoi dire che c'è un confine, che c'è il muro. Certo, la globalizzazione non può avere confini. E quindi la globalizzazione non può avere confini, non ci sono le ragioni dei popoli, e questo è un enorme errore, e naturalmente tutto viene ammantato, spacciato, diffuso e propagato sempre con il sopracciglio alzato, il dito, l'indice puntato, insomma, questa aria di superiorità antropologica, certo, di una classe intellettuale che in realtà non esiste, o meglio è infima e misera, e con la lingua della verità viene completamente cancellata. Ecco, Derrida distingue il razzista, abbiamo sentito, il razzista emotivo dal populista che agita il disagio solo per fini politici. Ecco, Pietrangelo, è così? Il populismo è solo strumentale? Il populismo è strumentale, ma è speculare all'altrettanto strumentale linguaggio del politicamente corretto. Certo. Ovviamente tutto ciò che fa parte del nostro orizzonte, dell'orizzonte a noi contemporaneo, è determinato anche da un'assenza di potere sovrano che possa gestire queste trasformazioni. Pensiamo al discorso dei confini, diciamo. Al di là dei confini, per dirla facile, soltanto un impero può farsi carico delle diversità e contenerle dentro di sé, altrimenti è sempre complicato, non solo perché sono finiti ormai gli stati sovrani, ma perché c'è una precisa politica stabilita dalla globalizzazione, che è quella di livellare e di seminare una confusione omogenea in tutto il pianeta. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS, continuate a seguirci anche su Facebook e su Twitter. E ascensore, ascensore. La vita di suo fratello non era delle più tranquille, Manfredini, lei senza dubbio ne era al corrente. Potete chiedere alla mamma se per caso ha visto il mio amato cane Valentino? L'ho ammazzato io, perché era da Lazio. Ecuador, Filippini, tanto è uguale, siete tutti forestieri. Voi sporcate e io pulisco. Se volete lavorare qua, vi dovete far piacere quello che piace a noi. Avete rotto il cazzo. Tutti! L'Italia è l'italiano! difenderò la civiltà in questo palazzo finché sarò vivo. L'ascensore è di tutti, caro mio. Amara Lacus, scrittore, antropologo, autore del libro appunto Scontro di civiltà per un ascensore a Piazza Vittorio, da cui è stato tratto il film di cui abbiamo sentito un piccolo brano. Ecco, Lacus, lei è nato ad Algeri, dopo un periodo passato a Roma, adesso vive a New York. Qualche settimana fa qua l'ambasciatore Sergio Romano ci ha parlato di un rischio strisciante di guerra civile negli Stati Uniti. Lei lo vede questo rischio? No, assolutamente. Ma il Muslim ban di Trump è davvero pericoloso? È pericoloso, però la società civile è attenta, poi abbiamo visto anche i giudici. È un grande test, è un grande test della società. Senta, ma tornando all'Europa e a Roma, che cosa è successo agli abitanti appunto del condominio di Piazza Vittorio di cui lei ha parlato nel suo libro? Guardi, io adesso vivo a Harlem, le difficoltà e i problemi sono sempre gli stessi, la paura dell'altro. E poi in realtà, dalla mia esperienza, io ho vissuto 18 anni in Italia, 16 a Roma, 2 anni a Torino, e quello che sono arrivato qui a New York 3 anni fa con questa esperienza straordinaria. Le persone che hanno paura degli altri sono persone in realtà che hanno paura di loro stessi. Ma lei cosa ne pensa della concentrazione di immigrati nelle periferie, nelle grandi aree urbane, dove alla fine i nativi diventano minoranza? È questo che stravolge un po' l'antropologia dei quartieri? Prendiamo l'esempio degli Stati Uniti, quello che chiamano qui l'America profonda. Sì. In realtà non ci sono tantissimi immigrati. Penso a Michigan, mia moglie è americana di Michigan, non si vedono gli immigrati. In realtà c'è tutta una fantasia, fatti non reali. Cioè c'è una speculazione sulla paura in qualche modo. Esatto, ecco. Anche sul terrorismo, tutta questa strumentalizzazione di Trump in realtà non ha senso. Però gli ha fatto vincere le elezioni. Sì, ma è facile vincere le elezioni, anche perché quelli che hanno votato per Trump, io anche tante persone che conosco, hanno votato Trump per una cosa, che uno che era contro le tasse ha votato per le tasse, l'altro per la sicurezza, l'altro per... Invece una visione vasta del problema in realtà non c'è. Secondo la sua esperienza, che ha girato tanto, l'Italia è un paese accogliente oppure no? Dipende dalle storie personali. Io mi ricordo quando sono arrivato in Italia nel 95, ho avuto l'occasione di conoscere uno studente di filosofia. Io ero laureato in filosofia ad Algeri. Siamo diventati amici, ho cercato di aiutarlo nella filosofia contemporanea, e lui mi diceva che era fascista dichiarato. Io un giorno, si chiamava Luca questo ragazzo, io gli ho detto: Luca, guarda che io come immigrato nel tuo stato fascista io sarò escluso. Lui mi ha guardato e mi ha detto: non ti tocca nessuno, tu sei amico mio. Nel senso, nelle storie personali, vedo anche le famiglie italiane che danno le chiavi di casa agli badanti. Cioè, certo. Questi badanti, queste donne che fanno le pulizie hanno le chiavi di casa. È il massimo dell'intimità. Certo, e non c'è dubbio. E allo stesso tempo c'è questa diffidenza. Senta, c'è qualcosa che non torna. Che non torna nella sintesi. Senta, le faccio ascoltare questo brano tratto dal film La Crisi, un film francese del 1992. Senta qua. Penso che è molto più facile essere contro il razzismo quando si abita a Nuit che quando si abita a Saint-Denis. Io, per esempio, sono di Saint-Denis e, sono razzista. E voi, invece, vivete in questa casa e non siete razzisti per niente. Francamente, Michou, lei si considera un razzista? Ah, sì, francamente, sì. Io con gli stranieri ci vivo insieme, non li posso soffrire. Non fanno niente, sono sporchi, ci fregano le macchine. Gli danno pure le case prima che a noi, guadagnano più di noi con tutti i sussidi che hanno. A scuola i nostri figli non imparano niente perché il 70% è di stranieri che non parlano una parola di francese. Ci rompono con i loro chador e dovremmo pure pagare per costruirgli le moschee. Beh, è tutta un limite. Ma finora chi si è stretto per fargli posto sono quelli di Saint-Denis, mica quelli di Nuit. Lo conosce il film, che impressione le fai? Io conosco Saint-Denis perché ho tre sorelle e quindi che abitano lì. Penso che sia una guerra fra poveri. Quello che ho raccontato io nel Scontro di Civiltà per l'ascensore Piazza Vittorio, anche qui in Stati Uniti in realtà è una guerra fra poveri. Ma la Francia ha sbagliato più di altri la sua politica di integrazione o di migrazione? La Francia è un altro esempio. Infatti io quando ero in Italia, quando si parlavano di modelli da accoppiare, io ero molto scettico. La Francia ha una pesante eredità coloniale. Certo. Questo si comporta con gli immigrati come fossero dei residenti delle colonie. Non ha mai fatto una autocritica vera. Adesso parlo da algerino. Ecco, ma lo scontro di civiltà che cos'è? Esiste? Ma uno scontro fra ignoranze in realtà, perché civiltà vuol dire cultura, vuol dire poesia, vuol dire arti, cinema. Io non ho mai sentito scontro tra poeti libanesi e poeti italiani, tra registi italiani e registi sauditi. Cioè il vero problema è l'ignoranza. Non solo ignoranza, ma penso anche di fragilità interiore, non so, persone che non hanno fatto i conti con le loro memorie e con le loro vite e vedono nell'altro un pericolo. Ecco, facciamo un esempio al contrario, un po' radicale. Migliaia di migranti di origine occidentale, cristiani, vanno a abitare in un quartiere totalmente musulmano, però prati conservano le loro abitudini e diventano improvvisamente maggioranza. Che cosa succede? Succede la stessa cosa, gli do un esempio concreto. Sì. In Algeria, negli anni 2000, sono arrivate le società di costruzione cinesi. Sì. Poi questi lavoratori sono rimasti soprattutto ad Algeria, nelle grandi città, e qualche anno fa sono successi problemi, ci sono stati scontri tra cinesi e algerini anche lì. Sono andato a leggere i giornali, i commenti eccetera eccetera, erano dei commenti razzisti: vengono qui, devono rispettare la nostra religione, la nostra tradizione eccetera eccetera. Ed l'essere umano è lo stesso. C'è una bellissima citazione di Nietzsche in cui parla del ruolo del medico. Dice: il ruolo del medico non è curare la malattia, ma tranquillizzare l'immaginario del malato. Penso i giornalisti, scrittori, intellettuali, certo, abbiano questo ruolo, questa responsabilità. Sì. E invece i politici fanno il contrario. Basta vedere l'estrema destra o, certo, la destra cosa fa in Francia, in Italia, cerca di tormentare questo immaginario già provato. Ecco Mario, tranquillizzare l'immaginario come un medico col proprio paziente, e questo è il compito anche nostro, di chi fa informazione o no? Sì, devo dire la cosa è stato bravo, perché ha descritto da scrittore, diciamo, quindi con una certa grazia, il sottosopra però. Sì. Il sottosopra è tutto, non so se abbiamo il tempo per far vedere che cos'è il sottosopra, musica. Francia, 2022. Un partito musulmano conquista il potere dopo aver battuto il Front National di Marine Le Pen. Il governo del nuovo presidente Mohamed Ben Abbès nomina François Bayrou come primo ministro e impone una sorta di sharia attenuata, a cui le élite francesi si adeguano, collaborando con il nuovo regime. È una distopia, è soumission, il libro di Michel Houellebecq, e come sempre la letteratura spesso anticipa gli eventi. Questo è il punto, questo è il sottosopra che si ottiene se non si fanno alcune cose, cioè delle politiche di integrazione migratoria serie. Il rispetto delle identità, appunto. Naturalmente, c'è un grande fraintendimento su cosa sia però l'identità. Non è solo, ma anche se è molto importante, Pietrangelo, è un problema religioso. Che ne pensi? Beh, quando c'è una forte identità corrisponde anche una consapevolezza di sovranità. Faccio un esempio che non viene mai utilizzato nel dibattito contemporaneo. Una grande realtà, qual è la Russia, per esempio, contiene al proprio interno almeno tre grandi identità che corrispondono alle religioni universali, perché c'è il cristianesimo, c'è l'Islam e c'è quella grande distesa asiatica che corrisponde poi alle culture, alle civiltà dei Veda, al buddismo e a quella meravigliosa pagina considerando anche la presenza della comunità ebraica, che però non corrisponde, diciamo, alle religioni universali. C'è una forte identità quindi che è in grado di contenere le diversità. Quello che è venuto a mancare invece nel nostro orizzonte è tutto il contrario, Giovanni. Io credo che chi arriva non trova un'identità religiosa, trova piuttosto una laicità che non dà quelle risposte profonde che ogni individuo cerca nella propria giornata. Beh, una secolarizzazione totale della società, senza volerla tirare, infatti, difficile, crediamo più a niente. Al consumo. Ecco, a proposito di questo argomento di oggi, abbiamo fatto un piccolo test, abbiamo lanciato all'inizio una domanda su Facebook, su Twitter. come nasce la diffidenza verso lo straniero, razzismo, diversità inconciliabili. Su Facebook Paolo dice che si tratta di ignoranza, su Twitter Giulio dice provincialottismo, poca conoscenza, molto terrore indotto dai media per fare audience. Sempre su Twitter, comunque 26% dice razzismo, il restante 74% dice però diversità inconciliabile. Insomma, quali diversità possono essere davvero inconciliabili, Mario? Quelle che limitano la mia libertà, o io che limito la libertà di chi arriva. Questo è il punto chiave. Siamo sempre ai valori fondamentali. Senti, tu Pietrangelo, che cosa pensi di questo? Beh, cioè, come ci scrive Giulio su Twitter, è vero, il provincialottismo incombe. Tant'è vero che, caro Mario, non possiamo col nostro lavoro, caro Giovanni, caro Mario, col nostro lavoro non possiamo essere neppure panacea o medicina. No, noi non lo siamo. Perché c'è un'ignoranza profonda da parte proprio del giornalismo professionale su questi temi, che da un lato alimenta il becero populismo, dall'altro lato non fa altro che rinfocolare i sacri lai del politicamente corretto. Certo. Nessuno è in grado di gestire le cose in punto di verità. Vorrei ricordare, Giovanni, che su Rai 1, in una trasmissione assai popolare di Rai 1, il conduttore, che oltretutto è un giornalista, ha detto testuale: in Iran è vietato farsi il segno della croce, una falsificazione sfacciata che alimenta lo scontro di civiltà a cui faceva riferimento appunto prima il nostro ospite. Sì. E questo scontro di civiltà è veramente dettato dall'ignoranza. Non si è mai visto. È male assoluto. Ed è quello che porta all'odio. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, sms pubblicità. State ascoltando un programma offerto da... Il colesterolo in eccesso può causare problemi al cuore. Danacol, grazie agli steroli vegetali, lo riduce fino al 10% in 3 settimane. Mix 24. Ecco, bentornati. La notizia di cui tutti parlano da ieri è quella che vede Gianfranco Fini, l'ex presidente della Camera, indagato per riciclaggio nell'ambito dell'inchiesta che ha portato la Guardia di Finanza a sequestrare beni per 5 milioni alla famiglia Tugliani, la famiglia della moglie. Queste le parole con le quali invece nel 2010 Fini spiegò la sua posizione sulla famosa questione della casa di Monte Carlo. Chi è il vero proprietario della casa di Monte Carlo? È Giancarlo Tugliani, come tanti pensano? Non lo so. Gliel'ho chiesto con insistenza. Egli ha sempre negato, con forza, pubblicamente e in privato. Restano i dubbi? Certamente anche in me. E se dovesse emergere con certezza che Tugliani è il proprietario e che la mia buona fede è stata tradita, non esiterei a lasciare la presidenza della Camera. Non per personali responsabilità, che non ci sono, bensì perché la mia etica pubblica me lo imporrebbe. Allora, naturalmente, come tutti sappiamo, non andò così. Era il settembre del 2010 e due settimane fa, invece, con Giorgia Meloni in televisione alla 7, durante il faccia a faccia, lei ha commentato in questo modo il caso Fini. Lei un giorno mi ha detto: a Fini io devo tutto. Poi cosa è capitato? Beh, umanamente niente, politicamente è capitato che... non lo so, che Fini è diventato irriconoscibile per noi. Ecco, ma adesso sulla casa di Monte Carlo Fini dice addirittura: sono stato un imbecille, ma è sufficiente? Purtroppo no. Il dire mi sono fatto prendere in giro per un uomo di quella levatura, no. Ma cosa l'ha rovinato? L'amore o qualcos'altro? Me lo chiedo da anni, non ho dato una risposta. Non ce l'ha una risposta. No. Beh, anche noi non abbiamo una risposta. La giustizia sta indagando, ci dirà come sono andate le cose. Comunque è davvero una grande sorpresa. Mario Pietrangelo, Mario, tu cosa ne pensi? Sorpresa no, perché no. In realtà le carte dell'epoca, noi avevamo pubblicate, eccetera, erano molto chiare. Molto chiare, cioè, però si sono fermate. Sì, no, dicevano tutti che non era così. Cioè, siamo finiti pure in tribunale. Ovviamente poi è andata come doveva andare, cioè abbiamo vinto. Ma è sorprendente che si sia arrivati oggi a questo. Cioè, sono passati sette anni. Ah, tu, Pietrangelo? Non lo so, non saprei cosa dire. Ricordo un dettaglio che venne archiviato a un certo punto Gianfranco Fini, vero? Sì, sì. Si risolse nel nulla. E ricordo pure un altro dettaglio, che chi archiviò, cioè il magistrato che archiviò il caso Fini, venne poi nominato sottosegretario in un governo dove Fini aveva parte magna. Ah. E quindi mi taccio. Che ci fai sentire? I met you in the dark, you lit me up, you made me feel as though I wasn't off. We danced the night away, we drank too much. I held your hair back when you were throwing up. Then you smiled over your shoulder. For a minute I was stone cold sober. Allora, e allora c'erano cani e c'erano volpi oggi per strada, e c'era un leone che però un poco si vergognava di loro, però accordò di fare un po' di cammino insieme, e perché si sa, chi sta alle calcagna di un leone qualcosa ne ricava sempre. Ha chiamato Diana cacciatrice, ha voluto questo brano da dedicare proprio al leone e anche alle frecce, con una dedica: meglio essere trofeo a una dea che compare ai vili. Bella dedica. Allora tu non che ci so. Racconti? Io sono per le pantere, vabbè. È una pelliccia. You're sweeter than the morning when the sun is shining down on me. Sono le 9.40, ci può pure stare di Purple con Hold On, dai. Oh Giovanni, e tu allora, sai che Trump è un protezionista, no? E porca certo. miseria, sappiamo tutti come Trump è un protezionista, è quello contro il free market, il dittatore dei dai mercati. Adesso non fare la... Vabbè, il protezionista è Trump, non so se l'avete capito. E naturalmente non è il governo tedesco che invece dice no, che il gruppo General Motors non può assolutamente vendere. Ma perché non possono essere tutti e due protezionisti? Aspetta. Il protezionista è Trump e non il governo tedesco, che dice che no, il gruppo General Motors non si può vendere assolutamente ai francesi di PSA Citroën. E quindi quei mangiatori lumache in Germania, ma quando mai? E loro sono per il free market, ma non si può vendere, perché il protezionista è Trump, okay. Proprio così. Sai, è Attila, è il nemico della globalizzazione, e lui, è il protezionista è Trump e non quelli del Parlamento europeo, che oggi probabilmente, e alcuni, non tutti, tutti ovviamente diranno no al famoso CETA, cioè il trattato di libero scambio tra l'Unione Europea e il Canada. Il protezionista è Trump, è inutile dirlo, non è l'Olanda che si prepara probabilmente ad affondare il trattato con un referendum, come è già successo in altri casi, anche in presenza di un voto favorevole eventualmente di Strasburgo, perché il protezionista è Trump e quindi il giornalista collettivo è servito. Salamino! Quarto potere, quinto potere, zero potere. Giornali, no. A proposito di giornalista collettivo, giornali in prima tutti linea bravissimi. Per la libertà di stampa. Tutti in piedi. Il messaggero, l'unità, la stampa, il Corriere della Sera, la notte, la Gazzetta del Popolo, il ventesimo secolo e poi il resto del Carlino. Oh, ancora ieri Luigi Di Maio, vicepresidente della Camera, era marchiato come un bugiardo. Le edicole unificate, caro Mario, tu hai evocato del giornalista collettivo, hanno inchiodato l'esponente del Movimento 5 Stelle su un preciso fatto: essere lui il garante di Raffaele Marra, cioè il dirigente del Campidoglio arrestato a dicembre per corruzione. Oh, tutto, caro Giovanni, tutto un su e giù nel macchinoso ventilatore del quarto potere, zero potere della carta stampata. Ed è sempre su e giù. Bianco e nero, falso e vero. Questo il mondo fa girar, per ogni qua c'è sempre un là, per ogni se c'è sempre un ma. Sì, sì. Insomma, per un su e giù è perché un garante arrogante risultava Di Maio secondo i giornaloni. Perché? A Lucia Annunziata, che lo intervistava il Rai, lui diceva: ho chiesto a Virginia Raggi di allontanarlo da vice capo di gabinetto. Ma Repubblica e Corriere ancora ieri scrivevano, e Di Maio scrisse alla sindaca: Marra è uno dei miei, un servitore dello Stato. Repubblica, oltretutto, che è il quotidiano diretto da Mario Calabresi, svela la menzogna seriale di Di Maio, cioè ha mentito su due circostanze che siamo in grado di documentare. Allora, intanto non è vero che lo incontrò il 6 luglio per cacciarlo, no, ma per amarlo. Poi non è vero che fu la sindaca a impedirne l'allontanamento, no, ma lo vollero tutti quanti. Insomma, a mille ce n'è. A mille ce n'è nel mio cuore. A mille ce n'è di versioni, ma il fatto nudo e crudo è solo uno. I poveri ma illustri colleghi dei giornaloni sono stati tratti in inganno da una fonte che ha passato loro un ritaglio, il ritaglio di una chat, cioè un frammento fuori contesto, fuorviante rispetto alla vera opinione di Di Maio. Quindi, qual era? Allontanare Marra. Morale qual è? Che ieri Beppe Grillo ha pubblicato nel suo blog il testo integrale. Ma la morale urge, cioè i giornaloni non dicono, che non dicono ba per esempio sul governo che conferma un ministro e quattro sottosegretari indagati, fa babau contro Di Maio attraverso un copia e incolla, taglia, ritaglia, ricuci, fornito loro da chi? Da chi? Da chi è stato fornito? Da chi è stato fornito? Da chi? Da chi? Forse da un futuro nuovo sottosegretario che candideranno, no, immagino. Ma non lo so. Fornito dagli inquirenti. Da quel posto è uscito di sicuro. Da quel posto è uscito di sicuro. Dalla procura, dove fanno interrogatori di 8 ore. Nel frattempo, a sindaco, a chi che e sia. Insomma, perché tutto questo? Perché questo è Cristo. Allora Mario, la bolla ancora veloce? Velocissima. Ce l'abbiamo? Sì. Questa alle 9.40 sia un po' più tostina. Comunque Royal Blood, sangue reale. Little Monster, piccolo monster. Oggi siamo proprio sull'hard rock. Vabbè, no, segnalo solo che oggi la Camera vota la fiducia per la conversione in legge del famoso decreto sulla tutela del risparmio, che poi è, insomma, volgarizziamo la cosa, è il salvataggio di Monte dei Paschi. Sì. Segnalo che da allora, cioè, su Monte Paschi c'è una sorta di nebbia, di silenzio, di qualcuno ogni tanto si interroga, anche colleghi molto bravi lo fanno, così via, ma dei rapporti tra il management di Monte dei Paschi e il governo, e qui il Ministero dell'Economia in particolare, di quale sarà il piano industriale che si sta approntando. Conferme o smentite su alcune notizie che dicono che i conti sarebbero peggiori di quelli che sono stati, diciamo, presentati. Anche oggi ho letto delle cose interessanti. Non ce n'è. E cioè, Giovanni, ma che ne pensi tu? No, io non penso niente. Aspetto di capire, perché mi sembra una cosa che assume i toni kafkiani proprio. 800 24 0024, numero verde, 349 238 6666, l'SMS, pubblicità. Mix 24. È una guerra senza confini quella che ogni giorno forze dell'ordine e magistratura italiana combattono per il recupero delle opere d'arte trafugate e vendute sui mercati illegali. Una guerra che non ha un fronte preciso, perché in ogni angolo d'Italia sono nascosti tesori. beni librari e archivistici, oggetti antichi, numismatica, reperti archeologici e paleontologici che fanno gola a una particolare forma di criminalità, l'archeomafia. Protagonisti di questa quotidiana opera di spoliazione del patrimonio artistico storico del nostro paese sono ladri, ricettatori, riciclatori e trafficanti. La posta in gioco è altissima. Secondo i dati Legambiente, nel 2015 sono stati recuperati beni culturali connessi ad attività illecite del valore di 15,4 milioni e falsi per un valore superiore ai 3,3 miliardi. 619 i furti di opere d'arte accertati dalle forze dell'ordine nel 2015, con Campania e Lazio prime su scala regionale. Canzoniere. Che fai? Ma cosa stai facendo? Ma presto! Preparati a servire gli avventori per bene, perché il buon nome di una bottega dipende dalla buona maniera di quelli che mi servono. Padrone, per dirvi la verità, questo lavorare di buon'ora non è fatto per la mia salute. Eppure bisogna cominciare a lavorare a buon'ora, presto, perché a buon'ora presto vengono quelli che hanno da far viaggio, i lavoranti, i marinai, i barcaruoli. (800) 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS. Mario, c'è un aggiornamento? Sì, no, sarà una giornata molto interessante sui mercati. Le borse europee hanno aperto molto bene sulla scia di quello che è successo ieri a Wall Street, perché in tutta sta roba di Trump, la Russia eccetera, alla fine Wall Street sta macinando record su record. C'è una grande fiducia nella politica economica annunciata dalla Casa Bianca, naturalmente una scommessa. Segnalo che Goldman Sachs ha realizzato il suo record storico di quotazione ieri dopo 10 anni, cioè era dal 2007 che il titolo di Goldman non toccava quel risultato. Segnalo anche un'altra cosa molto interessante che è successa sempre a Wall Street e dà la dimensione del fenomeno Trump sulla finanza, sulla borsa, e i titoli dell'impero di Warren Buffett, sapete tutti il re Mida della borsa, le azioni classificate A, quelle più importanti, hanno sfondato la quota di $250,000 a azione, che porta l'impero di Buffett ad oltre 450 miliardi di capitalizzazione. È tutto molto interessante da guardare, senza pregiudizi, senza per favore. Pregiudizi. Adesso il professor Roberto Bernabei commenta le più importanti notizie di medicina apparse sulla rivista Top del Mondo. Medicina, le frontiere della ricerca. New England Journal of Medicine, dicembre 2016. Sicurezza cardiovascolare del celecoxib, naproxene ed ibuprofene. Gli antiflogistici non steroidei sono i farmaci che utilizziamo tutti i giorni per il mal di testa, il dolore al ginocchio, il mal di schiena e quant'altro, presentano il problema del rischio cardiovascolare, soprattutto negli anziani, insieme a quello della tossicità gastrointestinale, che è tipica di questa classe di farmaci. Da qualche anno sono disponibili antiflogistici non steroidei di seconda generazione che hanno una scarsa tossicità gastrointestinale, e se ne è testato uno, il celecoxib, appunto per vedere quella cardiovascolare. E lo si è testato, il celecoxib, contro il naproxene e l'ibuprofene, che sono gli antiflogistici non steroidei di prima generazione con minor tossicità cardiovascolare. 25.000 pazienti sono stati analizzati, pazienti con osteoartrite o artrite reumatoide, quindi costretti a prendere questi farmaci, e sono stati seguiti per 20 mesi di trattamento e un follow-up successivo di ulteriori 35 mesi. Tossicità cardiovascolare si intende quella che produce infarto, ictus o morte, e questa tossicità è stata identica nel celecoxib rispetto al naproxene e all'ibuprofene, con evidentemente però molti minori effetti gastrointestinali da parte del celecoxib. Quindi a dire che c'è una strada praticabile per curare i nostri acciacchi, i nostri dolori, i nostri mal di testa con un farmaco che è più tranquillo, il celecoxib, rispetto agli altri colleghi di seconda generazione. Bene, mi sono impadronito del microfono, la chiusura la lancio io. Gloria Guerrera, che cosa ha preparato per noi? Oggi una canzone per chi ha trovato finalmente la direzione, sente la vita ed è apertura senza esitazione. Francesca Michelin, Nessun grado di separazione. È la prima volta che mi capita, prima mi chiudevo in una scatola, sempre un po' distante dalle cose della vita, perché così profondamente non l'avevo mai sentita. Farsi strada nel mio petto senza spegnere.